andiamo, che siamo un minutino in ritardo, 8.05 minuti, voltiamo pagina, iniziamo subito intanto con il ringraziamento a Libreria Ubic per la collaborazione con il format letterario dei 103.1, che ricordo, per chi non lo sapesse, in via Ernerio 27, ovviamente a Bologna. Ringrazia Libreria Ubic e il voltiamo pagina anche il nostro supercampione, che da quel che ho capito ieri è passato e ha fatto incetta di trofei letterari vinti grazie al voltiamo pagina e grazie anche alle risposte ai quiz al 333 180 9494. Buongiorno Silvia, è arrivata una recensione molto intensa. Wow, benissimo. Allora, un libro segreto, tra l'altro. Dai, questo mi fa piacere. A sorpresa. Allora, prima di tutto volevo salutare anch'io. Buongiorno a tutte e a tutti. E che libro era? Allora, Labirinto d'erba di Tsumi Kayoka. Sì, è lui. Puoi sentire la recensione, è un po' lunghina, però la leggiamo, è di Andrea ed è una storia fantastica, nel senso di popolata da creature mostruose e misteriose, ambientata in una casa dove soggiornano un monaco e un ragazzo, quest'ultimo alla ricerca di un ricordo del passato. Mi è piaciuto, anche da profano della cultura e tradizioni giapponesi. Dico questo perché sia nelle note tra le pagine che nell'interessante postfazione si capisce che l'intero libro è pieno di rimandi a libri dipinti nella tradizione giapponese. Un libro quindi probabilmente molto più profondo di quanto un semplice lettore possa intendere, intriso anche di una prosa espressionistica che traspare, nonostante ovviamente il libro sia tradotto in italiano. Sempre nella postfazione si parla del particolare flusso linguistico utilizzato dall'autore, con le parole che si amalgamano come musica ad evocare atmosfere fantastiche. Allora, grazie Andrea. Grazie mille. Scritto Andrea. Benissimo, sì, fra l'altro. E poi devo dire, io quel libro l'ho letto ed ero molto incerta se metterlo tra i libri misteriosi, perché è difficile, cioè è veramente una cultura diversa, con tutto che è fatto benissimo, perché non è solo un libro così di intrattenimento, ma fa parte di una collana filologica. Quindi, come dice giustamente Andrea, in fondo c'è la postfazione, è stato curato da degli esperti nipponici, di nipponismo, tra cui Francesco Vitucci, che tu hai conosciuto. Sì. Anzi, sì, è lui che ha curato le note, credo. Abbiamo fatto presentazioni, sì, assieme. Sì. Per cui, sì, era un libro veramente tosto, diciamolo pure. Andrea molto preparato, molto curioso, sì. E allora, si rivela un 9 come voto per quanto mi riguarda. Chi? Andrea? Andrea. Ah no, credevo. Do 9 a questa recensione. Credevo che Andrea avesse dato 9 al libro perché... ha dato solo un giudizio. Gli facevo i miei complimenti perché per me quello è stato, devo dire la verità, per me quello è stato un libro un pochino ostico da arrivarci in fondo, ma perché anche per il problema della diversità enorme e del riferimento a una cultura di cui io non so assolutamente nulla. Beh, molte volte però tutto ciò poi incuriosisce, sì, e imparare è sempre utile. Guarda, Figlio dell'Impero Britannico, quante cose sulla legislazione coloniale abbiamo imparato. Però siamo sempre nell'ambito di una legislazione. Legislazione occidentale, qui siamo in una atmosfera, capisco, come dice lui, magica, con questi monaci strani, giapponese, e giapponese anche di un medioevo, se ricordo bene, giapponese, sì. Quindi veramente è un po' come quando vai a vedere certi film giapponesi antichi che si svolgono nei periodi passati. E qualche volta si fa un po' fatica. Rimani un po' così. Bravo intanto. Bravissimo, Andrea, sì, bravissimo. E invito anche le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno trovato motivo di lettura a portare le recensioni per quanto riguarda attinenze con il voltiamo pagina. Vedete, in fondo poi siamo buoni nel proporre una lettura e ci fa molto piacere, sì. Certo. Cominciamo con la nostra playlist odierna, sì, dopo questo incipit. Allora, oggi porto un libro italiano, che è una cosa un po' strana per me. Io non sono molto esperta di letteratura italiana e lo porto perché, così mi piace salutarla se ci sente, me l'ha consigliato la Nicoletta di Trame. L'ho letto con un minimo di perplessità, perché parto sempre un po' prevenuta, per devo dirlo. Capisco, per gli italiani e per i giovani italiani in particolare, perché mi hanno dato qualche fregaturina. Invece devo dirti che è un libro veramente, veramente interessante. Un libro che consiglio caldamente, si intitola Il nostro grande niente. L'ha scritto Emanuele Aldrovandi per Einaudi Stile Libero. Allora, è un libro che in pratica parla di due ossessioni, se vogliamo, che abbiamo tutti, soprattutto una, da cui deriva poi l'altra, cioè l'idea che siamo tutti destinati a morire. E che quindi, è l'unica cosa certa della vita. E che quindi a cosa serve agitarsi tanto? A cosa serve coltivare grandi passioni, cercare successo, ma anche buttarsi in un amore profondo se poi tanto si deve scomparire? Da questo deriva l'ossessione del protagonista di rendersi conto che se nel momento in cui si scompare non ci sia più, chi resta a un certo punto soffrirà moltissimo, ma una volta elaborato il lutto può anche sostituirti. E quindi l'idea che nessun amore è l'amore eterno, poi, se interviene la morte. Il romanzo è molto difficile parlare di questo romanzo senza fare dello spoileraggio, scusa la parolaccia, svelare. Perché il romanzo è diviso in due parti. Nella prima parte abbiamo un uomo di 30 anni che di lì a 2 o 3 giorni si sposerà, il quale ha un incidente d'auto e muore. E il romanzo comincia proprio con lui che, non ci viene detto, intrattiene un colloquio con la donna che stava per sposare e la segue fino alla sua tarda età. Quindi vede tutta l'evoluzione, diciamo così, della elaborazione del lutto di questa ragazza, che passa appunto dalla disperazione iniziale fino a rendersi conto che deve andare avanti, trovare un altro, farsi una famiglia, e alla fine della prima parte è una signora, è già vedova, una signora di più di 70 anni, che fa un bilancio della sua vita ed è un bilancio positivo. E lui, che continua a parlarle, no? A intrattenere, si rende conto sempre di più che mentre all'inizio lei sembrava proprio non farcela senza di lui, alla fine sì, lei nelle ultime immagini ritrova una fotografia, una vecchia fotografia dei primi tempi in cui si erano conosciuti, la guarda, non è che non lo riconosca, sa benissimo chi è, però fa fatica a ricordare dove erano e comunque è già un aspetto sfocato, sì, molto sfocato, la vita l'ha già superato da un pezzo e lui chiaramente si ritrova un po' perplesso, diciamo, quantomeno. La seconda parte in qualche modo ribalta tutto ciò, ma non ti posso dire come, perché per non svelarlo, certo. E si concentra piuttosto su questa ossessione che il protagonista ha avuto fin dall'età di 7 anni di quello che non viene dopo, cioè l'idea che dopo, se una volta morti, c'è appunto niente, il nostro grande niente. Un altrove è nulla. Non c'è neanche un altrove, c'è un nulla. Quindi perché viviamo? Perché mi devo dar da fare? Cioè, da bambino la mamma gli diceva, prima dei compiti in classe, da ragazzo, ma non hai neanche un po' di nervosismo, non sei preoccupato? E lui diceva, perché devo preoccuparmi? Noi tanto moriamo alla fine, cos'è un brutto voto di fronte alla morte? Sì, davanti all'irreparabile un brutto voto si può rimediare. Appunto. E il libro, apro una parentesi, il libro è a modo suo leggero, non è un tragicone, sì. È quello il bello di questo libro. E quindi lui era uno anche che viveva molto il carpe diem, tanto dice, oh, dobbiamo morire, quindi facciamo tutte le cose che ci viene voglia di fare. Questa sua filosofia, tra l'altro lui studia filosofia proprio per questo, perché cerca una risposta, no, cerca una risposta che non gli viene, però questo si scontra appunto col fatto che a un certo punto lui ha questo amore enorme per questa ragazza che ha conosciuto fin da quando era una ragazzina, e più va avanti e più si rende conto che però anche questo amore è destinato a finire, per cui l'idea sarebbe, a un certo punto lei gli dice in uno di questi suoi colloqui post mortem della prima parte, cioè, ma forse avresti preferito che io me ne fossi andata insieme a te, cioè che fossi, non mi dire che non sei contento che almeno io sono ancora al mondo e, certo, e ti voglio ancora bene, eccetera. E lui dice, e lui sta in silenzio. Non sa cosa dire. No, perché sotto sotto l'idea sarebbe bene, quando muore uno, che se ne vada anche l'altro, ecco. Ah, ok, beh, un filosofo greco, tra l'altro, molto vicino a proposito di filosofia e questi principi, pensa che ha indotto molti suoi allievi al suicidio, perché diceva, tanto, ascolta, ecco, o prima o dopo. Lui non arriva all'induzione al suicidio, però l'idea è che, e insomma, se magari dopo un po' lei così naturalmente scomparisse, almeno il nostro amore andrebbe avanti, non ci sarebbe una seconda fase, non ci, certo, sarebbe un confronto, no? Non ci sarebbe soprattutto quest'idea che si può essere sostituiti. Io qui mi fermerei farei sentire il primo brano, che è la cosa più bella che sia mai stata scritta su questa tematica, ancorché molto triste. Io lavoro al bar di un albergo amore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino, puliti, educati, sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. M'han chiesto una stanza, gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3. E ho messo nel letto i lenzuoli più nuovi, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi, gli ho dato le chiavi di quel paradiso, gli ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutte uguali, non le vedo più manco con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, aprendo la porta in quel grigio mattino, se n'erano andati in silenzio perfetto, lasciando soltanto i due corpi nel letto. Lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati nei bianchi lenzuoli, e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, soltanto un furgone, ma là dove stanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, io sarò un cretino, ma chissà perché non mi va di dare a nessuno la chiave del... Ed è un pezzo bellissimo, tra l'altro veramente una poesia in musica nella selezione di oggi, mercoledì 6 marzo, per quanto riguarda questa tristissima storia che può avere attinenze, anzi per certi aspetti, della coppia protagonista nel lavoro portato edito da Einaudi con autore Emanuele Aldrovandi, ho letto bene? Aldrovandi. Aldrovandi. Sì, sì, okay. Non è così triste, dicevo il brano. No, il brano. No, tu hai detto può avere attinenze, sì, può avere, sì, attinenze, cioè, con quello che si diceva prima, che a un certo punto lui sarebbe dell'idea, vabbè, se deve finire che finisca per tutte e due. Però ti ripeto, ci sono dei punti che sono veramente anche leggeri proprio. È un libro che si legge bene, scritto molto molto bene, dialoghi perfetti. Quanto alla canzone, la canzone era nell'interpretazione di Herbert Pagani, che è quello, credo, che l'ha tradotta, che purtroppo è scomparso prematuramente. E per me è una cosa straziante, ma nello stesso tempo, come dicevi tu, pura poesia. Pura poesia, sì. A proposito, invece, nell'arte io consiglio il lavoro Asfissia del grandissimo post-impressionista romantico Angelo Morbelli, che ha l'immagine di una camera esattamente che ricorda, anche se dell'epoca di 1800, quella descritta nel brano portato da Silvia, e una coppia che si allontana anche nella struttura dell'immagine portata dal Morbelli, con il titolo Asfissia, e loro sdraiati e la stessa tela tagliata a metà con le due mani che si cercano. Anche questa è una grandissima poesia, in questo caso nell'arte. Beh, oggi dai, siamo allegri e vai, sono le 8:21 minuti, però abbiamo messo noi forse una vena un po' introspettiva, votiva, dalla mia passione. E beh, forse, ma ogni però tanto, il libro, tu stai dicendo, il libro invece è un libro piacevole, chiaramente. Ecco, si legge bene, no, non è un libro tragico, ecco, malgrado la tematica non è un libro tragico. È una storia d'amore, è una storia, direi, d'amore. Ma non è una storia d'amore sentimentale, melenza, smielata, stupida. Anch'io ho una storia d'amore, tra l'altro, un po' atipica, però insomma, ne parleremo a me ha molto colpito. Bene, sinceramente. A questo punto avremo anche il quiz, lo metti a disposizione? Sì, o porti? Sì, sì. Ok, sì. Molto bene. Per quanto riguarda il quiz, ribadisco il 333-180-9494. Invito anche a una sorta di onestà, e non solo intellettuale, onestà concreta, perché Luigi ha scritto: si è presentato un Luigi al mio posto, no, e ha preso. Quindi, per piacere, aggiungete, non voglio dire aggiungete il cognome, però insomma, sì, sarebbe l'iniziale, non l'iniziale, lo so. L'iniziale, anche se ho diverse Paola B, però. Oppure questo, no, questo è un fraintendimento, però. Oppure un in questo, una cosa buffa in questo libro, tanto per dirti che è un libro per certi aspetti leggero, i personaggi non hanno nome. Lui e lei sono semplicemente tu, perché lui parla sempre alla seconda persona e di se stesso non dice il proprio nome. Gli amici, che hanno un sacco di amici, sono tutti indicati con dei soprannomi, per cui non di nessuno degli amici tu saprai come si chiama. C'è il cinico silenzioso, il venditore di frigoriferi agli eschimesi, appunto, questo per dire che non è un romanzo che fa piangere, il violento e così via. Ognuno dei suoi amici è indicato con un soprannome che gli aveva dato, perché sono amici che lui si porta dietro dalle scuole elementari, e un soprannome che gli aveva dato da ragazzino. Quindi non c'è una sola persona che abbia un nome di battesimo. E anche questa è un'altra particolarità, quindi, nella scrittura di Emanuele Aldrovandi. Sì, se volete, magari non mettete soltanto Luigi, ma che ne so, Luigi della Croara, ecco, faccio per dire. Ok. Aldrovandi, tra l'altro, lo scrittore del nostro grande niente, è in scena con Erti in questi giorni. È vero, confermo, grazie per questa sottolineatura. Questo spiega perché i dialoghi sono così belli in questo libro, anche, perché lui nasce come sceneggiatore. Portiamo un'altra aggiunta. Non ricordo in quale lingua medio orientale esiste una parola che significa letteralmente ti amo così tanto da voler morire prima di te, come a sottointendere che la mancanza della persona amata sarebbe troppo insopportabile. È il contrario di questo libro, perché in questo libro lui invece dimostra che sì, anche loro all'inizio si dicevano ti amo così tanto, una roba del genere, ti amo così tanto da voler morire prima di te o con te. Però alla fine la mancanza della persona amata, sì, nei primi tempi si rivela insopportabile, ma poi dopo la prima parte è tutta divisa, anche la seconda, vedo. sono divise, invece che i capitoli ci sono i giorni trascorsi per esempio, nella prima parte dalla morte di lui, che sono numerati secondo la sequenza di Fibonacci. Bello. Ah ok, quindi in esponenziale. Sì. Ah ok. Io invece ho un altro esempio di coppia molto bello dell'amore, tra l'altro ho già citato mia nonna materna, nota per una cattiveria e un cinismo incredibile, e per consolare il povero nonno scomparso a 56 anni per una cardiopatia, lo tranquillizzava ogni volta che la nonna aveva una defiance, si avvicinava al consorte e diceva: stai tranquillo Poerio, tanto sono destinata io a morire prima di te. La risposta del nonno era: fosse vero, ascure su Nenzel, fosse la sentenza di un angelo. Ecco, questa è una situazione opposta. Sì. Non è andata così, ma tranquillo, tanto sai che sono destinata a morire prima io, ma se fosse vero. Mi piace, ma non condivido la tesi: se ami una persona non puoi augurarti la sua morte. No, no, questo è proprio il nodo di questo libro. La perché domanda del filosofo. Da un lato è: se ami una persona non puoi augurarti la sua morte, dall'altro però quando vedi che comincia dall'aldilà, insomma, che comincia a interessarsi ad altro, che comincia soprattutto a legarsi a un'altra persona, è chiaro che razionalmente ti dici non devo farlo, ma a livello emotivo provi una certa rabbia. E intanto abbiamo la possibilità, come già detto da Silvia, di portare nelle vostre biblioteche il lavoro di cui mi sfugge il titolo. Il nostro grande niente. Il nostro grande niente. E il quiz per avere il nostro grande niente. Dunque, Sara. Il nostro grande niente, che come dicevo è un romanzo abbastanza non tragico, lo dimostra anche il fatto che si svolge quasi tutto interamente a Reggio Emilia, città meno poetica che io conosca. Sì, non è bellissima, però dai, la città del tricolore, su dai. Beh, il tricolore qua non c'entra un cavolo. Non ci interessa. Cercavo di edulcorare. Vorrei sapere come si chiama il torrente che scorre a Reggio Emilia. Bella domanda per le appassionate e gli appassionati. E adesso la canzone d'amore più bella che io conosca. Titolo, autore, lo vogliamo dire? Claudio Lolli, L'amore al tempo del fascismo. A tra poco. Stare bene dove mettere i piedi per non calpestare le righe. Contare sempre da 1 a 10 prima di far saltare le dighe. Guardare in alto, a destra, a sinistra, come se fosse una cosa importante. Aspettare fumando per più di 2 ore, maledicendo una donna intrigante. E 2 bonghisti neri e 2 carabinieri che li guardano come se fossero stranieri. E non è rabbia per niente, e neanche cinismo, è il cielo di Bologna, questo è l'amore ai tempi del fascismo. Scoppiare tutto il tempo tra le mani per paura di non riuscire a fare niente, per ritrovarsi in una specie di domani pieno di persone che sembrano gente. Mettere in fila dei pensieri colorati e tenerli insieme con parole di cristallo, poi il mio cappotto che ha degli angoli slabbrati e il tuo tramonto che diventa troppo giallo. E 2 lavavetri polacchi che lavano nel niente, nei tuoi figli, nelle tue mogli, nel tuo respiro è indifferente. E non è rabbia davvero, e nemmeno arrivismo, è il freddo di Bologna, questo è l'amore ai tempi del fascismo. Poi tutti i paesi illuminati più dall'orgoglio che dalla luce, le case bianche e le figlie delle colline e di una piacevole assenza di voce, in cui andiamo a ricoverarci come malati allo stadio terminale, quei letti bianchi, i pochi ospedali in cui è possibile almeno stare male. E i due bonghisti neri e 20 carabinieri che battono i piedi assorti nei loro pensieri. E non è rabbia per niente, e non è più leninismo, è il ritmo di Bologna, questo è l'amore ai tempi del fascismo. Accarezzare la poesia con le tue dita per inghiottire lunghi giorni di silenzio, riccioli biondi incatenati ad una vita, piombo d'argento in fondo a lacrime d'assenzio. E due zingari slavi costretti dalle chiavi a chiudere per sempre il violino con quei suoni che tu amavi. E non è disperazione, e neanche dolore, è il vento di Bologna, questo è il fascismo al tempo dell'amore. Sono solo come mai, non ho una lira e tu lo sai, perdonami. Sono uno strano uomo che può frequentare solo te, abbracciami. Non sono morto e tu lo sai, se ti procuro tanti guai, perdonami. Il dolce non lo mangi mai, ma qualche volta ti rifai, abbracciami. Tutte le cose che non hai accanto a me le troverai nel mondo dell'illusione. Tu vai sicura, vai così, perché io sono sempre qui, qui. Piero Ciampi, l'amore è tutto qui, 8:37 minuti. Silvia, che playlist che hai preparato quest'oggi, da lacrime, veramente, allora, complimenti. Questa playlist, sono contenta che ti piaccia, perché a me è piaciuta molto. Sono, tra l'altro, ci tengo a dirlo, sono tutti pezzi che non si sentono mai, tranne quello che chiuderà. Proprio che le radio normalmente non li trasmettono. E questa playlist, devo dire la verità, i dischi sono miei, ma la scelta è di Stefano. Ah, grande Stefano, ma anche Silvia per aver confermato la playlist odierna, che trova l'approvazione di un pubblico non solo romantico e sensibile, ma anche attento alle scelte musicali. E intanto abbiamo avuto diverse risposte. Un attimo solo che trovo la base, la propongo per proclamare vincitrice la ascoltatrice, appunto, è una lei che ha vinto il libro proposto da Silvia. Intanto però leggo anche altri messaggi. Dino ci manda un bacio per... Ricambiamo. Ricambiamo, assolutamente. Però dice il Rodano, no. No, no, io no, direi no, la Senna. No, la Loira, no, no. Comunque è Luigi che scrive: grande canzone, pensare che oggi c'è la trap. Beh, mi rendo conto che è un po'... non stiamo a parlare di questo perché ce ne sarebbe. Luigi da Sasso scrive Enza, no? Enza è un fiume. Torrente. Allora intanto passiamo dal romanticismo alla idrogeografia. Quando ho sentito, io ne sono un appassionatone, come ben sapete, quando ho sentito il quiz di Silvia ho detto oddio, vedrai che... E infatti ho detto Lenza, vero Silvia? Lei fa no, oddio, ma allora è quello che intendo anch'io. Sì, esattamente, dico, vedrai che dovremmo aiutare perché è molto specifico. E invece no, sono arrivate risposte esatte e non solo una. Un pochettino in ritardo arriva, ma di poco, è la risposta di Raffaele, che lo mettiamo come medaglia di bronzo. La risposta di Paola esatta. Intanto vi dico già, per quanto riguarda il nome di questo torrente, è il torrente Crostolo. Sì. E infatti, come aiuto, la prima così definizione che mi veniva è il nome al singolare di come a Ferrara chiamano le nostre sfrappole, cioè i crostoli. Ed è il crostolo, perché la risposta esatta arriva puntualissima al volo da Maria Carla, che ringraziamo. Grazie Maria Carla, esattamente crostolo. Quindi molto preparati anche in ambito di idrogeografia, ascoltatrici e ascoltatori. È arrivata un'altra risposta e giustamente la porto in frequenza da Marco, che dà risposta il torrente Lenza. No, Lenza è un fiume, esattamente, segna il confine con la provincia di Parma. Anzi, scusate, il Parma, si chiama Parma, segna il confine. Lenza è dalla parte opposta nella idrogeografia della nostra regione. O almeno così nell'immediato. Guarda, io di idrogeografia non so niente. Il però, crostolo è saltato fuori. Com'è saltato fuori il crostolo? Perché un anno andai a far lezione all'università della terza età di Reggio Emilia, che si chiama Università del Crostolo. Ah, okay. Per cui chiesi cosa cavolo è sto crostolo e mi hanno detto torrente. È il torrente. Io sarò più immediato per quanto riguarda la presentazione nella selezione che mi è stata proposta da Ubic, che ringrazio. Ringrazio tanto Manuela Libraia per quanto riguarda diversi consigli già portati, e non sbaglia neanche per la presentazione odierna. Vi parlo di Marian Engel, è stata una scrittrice canadese molto riconosciuta. Dal 1933, suo anno di nascita, ha trascorso diversi anni ovviamente tra gli Stati Uniti, il Canada e qualche scappata in Europa. Si ristabilisce nella sua città natale, scrittrice impegnata politicamente e socialmente, è considerata, pensate, una delle massime esponenti della letteratura canadese, e questo lavoro è il suo romanzo più famoso. È scritto nel 1976. Allora, volevi dire? No, volevo dire che il notaio qua, che sta facendo il suo lavoro egregiamente, ci fa presente che esiste anche un torrente Rodano. Ah, che, che figura! Scusa Dino, l'esperto di idro. Che nasce sull'Appennino reggiano presso l'abitato di Casina. Scusa Dino, non so se scorra anche attraverso Reggio Emilia come il crostolo o no. Però si chiama proprio Rodano Reggio Emilia. Quindi Io a questo punto direi mi cospargo il capo di cenere. Quindi sì, però vabbè, la risposta che attendevo io era Crostolo. Sì. Il libro va a Maria Carla. Non lo so se vogliamo dare un premio. Un premio di consolazione a Dino perché è molto preparato? Sì, sarà mia cura. Ci penso io, chiaramente, a tutto ciò. Velocemente però è il momento di presentare questo lavoro di un'autrice canadese di cui ho già dato una biografia. Il lavoro ci porta negli spazi infiniti di quello che è un Canada, anche quando parte la pubblicità e non deve, per cui ripetiamo la base. È un Canada dalla natura chiaramente sconfinata, è molto vicino alla natura in maniera assolutamente presente ed esteticamente bellissima. È la storia di una protagonista, una bibliotecaria, dal lavoro ripetitivo, dalla grigia quotidianità, per portare così in maniera immediata la descrizione, risponde al nome di Lou, fino a che un lascito alla stessa biblioteca di un acculturato abitante di queste zone la porta in un trasferimento magico in uno spazio isolato tra questa natura selvaggia e la compagnia inattesa di cui vi darò descrizione a breve. È un lavoro che riporta la storia d'amore atipica, per usare un eufemismo, al mito. Ricordate il mito di Leda e il cigno? Ricordate il mito di Zeus ed Europa? Ecco, in questo caso troviamo invece una coppia inedita, ma quanto mai, sì, uso la parola giusta, appassionata. Intanto vi dico di una parte che me ha colpito molto, il trasferimento con l'accoglienza di un personaggio, uomo bonario, che riceve Lou, che deve catalogare il lascito ricevuto alla biblioteca per la scomparsa di questo acculturato isolato. Lei si aspetta un capanno, poco più, mentre invece si ritrova, seppur in abbandono, in una villa bellissima con un giardino immenso, però purtroppo è isolata, si raggiunge in barca, isolata nel vero termine della parola, perché è su un'isola. Quest'uomo che la accoglie, molto bonario, con il figlio disponibile, la ospitano, per così dire, per i primi momenti, danno indicazioni per quanto riguarda la sopravvivenza nel posto così ameno e remoto, quindi la stufa, la cucina, possibilità di riscaldamento, alcuni mezzi di emergenza, in caso di incidenti il primo soccorso, insomma, perché lei possa catalogare a suo agio tutti il lascito, che sono libri, documenti, fotografie, di questo personaggio che si è ritrovato in queste bellissime zone e che vuole donare alla biblioteca dove lavora Lou qualcosa di importante. Beh, intanto vi leggo una parte che porta il protagonista effettivo del lavoro sulle righe del libro di Marian Engel. «Beh, fuori ce n'è una che funziona», disse Homer. «Questa ci ha sempre dato dei problemi». Ecco, la prossima stanza è una via di mezzo tra una legnaia e il disimpegno per la legnaia vera e propria. Lì c'è un cortile e un capanno esterno. Lucy ha dato proprio una bella pulita, no? Venga, qui c'è la camera da letto padronale. Il letto sembra un po' sfondato, le ho preparato anche il camino, glielo accendo io. Andiamo sul retro, le mostro dove stanno le cose. Faccio il giro dalla porta principale, le scale posteriori sono pericolose, sa, di notte. Ora c'era molto buio, l'aria era fredda e umida. Lou tremava mentre seguiva Homer nell'ala sud della casa, dove lui le mostrò la pompa esterna per l'acqua, che aveva il braccio più lungo, il gabinetto esterno, che era uno dei tanti capanni sparsi nel cortile posteriore. Era a due buchi e lei notò divertita che le coperture erano vecchi lampioni smaltati e merlettati come il bordo di una crostata. Quindi fin qui tutto bene, no? Una situazione un po' particolare dove lavorare, una situazione dove far ricerca. Vabbè, la lasciano in pace, certamente, però insomma è abbastanza remota, se vogliamo, per una persona che è abituata alla grande città. fece per rientrare perché era buio e si sentiva stanca e infreddolita, ma Homer seguitava a fissarla. E adesso come fa? Era un po' imbarazzato, no? Non riusciva a stare fermo, doveva andar via, ma non si attardava. Lei si chiese se stesse per toccarla o fosse arrabbiato con lei. Voleva soltanto tornare a casa e rilassarsi. Era stata una giornata intensa, aveva fatto tante cose e aveva tante cose a cui pensare. Lui invece era impaziente e a un certo punto le disse così: "Le hanno mai parlato dell'orso?" chiese lui. Dopo aver dato, insomma, notizie, informazioni per il suo lavoro, alla fine... Ah, scusi, tipo Tenente Colombo, no? Un'ultima affermazione, un'ultima indicazione che le voglio dare. Le hanno mai parlato dell'orso? In effetti... Io sono qua che sto ridendo, perché quel libro lo scoprimmo quando è uscito, quindi 78, sì. Anni, tardi anni 70, ed era un libro che faceva scandalo, si parlava tutto, certo. nei corridoi dell'università. È scandaloso. Hai letto lo, perché noi cominciavamo a studiare letteratura canadese, e quello è uno dei primi libri che ci sono arrivati in mano, ed era pazzesco, perché questa che c'ha la storia con l'orso, è veramente, ci siamo fatti delle ghignate su quel libro strepitose. Sì, ma nello stesso tempo, uno, è scritto benissimo, sì, secondo sì. me è scritto meravigliosamente. Se riuscite a passare la parte di intimità con l'orso, vi rendete conto veramente di trovarvi di fronte a un capolavoro. Però la parte di intimità con l'orso è la parte più originale del libro. Sì, è certo. quella poi, in fin dei conti, che dà al libro quella nota in più. Eh sì, quindi, perché non voglio svelare neanche io, appunto, però è lei la seduttrice. Sì. È lei la seduttrice, no? No, è un libro strepitoso. Grazie Silvia, anche secondo me è un libro strepitoso. Ne ho già preso una copia anche per me, perché veramente è un romanzo insolito e meraviglioso. Ovviamente sono le parole, e ci credo, di Margaret Atwood, che per questo libro sarà impazzita, immagino, sì, penso, no? Di sì. E anche per le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ti assicuro che per noi che studiavamo agli albori la letteratura canadese, siamo impazziti tutti per quel libro. Sì, lei diventa seduttrice. Sì. Mi fermo qui, eh. Sì, non dire più niente. No, anche perché, insomma, è abbastanza esplicito a tratti, se vogliamo, hai capito? Ecco, lascio a voi la scoperta di questa meravigliosa storia d'amore. Vi ho parlato di Zeus ed Europa, no? Si trasforma in toro. Vi ho parlato di Leda e il cigno. Insomma, anche in questo caso vi è una coppia un po' atipica, dove però la seduttrice è lei, e insomma avrete modo poi di addentrarvi in questo panorama, oltre che naturalmente meraviglioso, molto molto importante dal punto di vista sentimentale. Mi dite il nome di un orso che, parlando un dialetto e un vernacolo partenopeo, è in cartone animato dal 1971, si preparava in questo zoo dove risiede insieme a altri due amici su una motocicletta invisibile, è stato tradotto in italiano in un modo molto particolare e carismatico. È un orso che nel tratto originale Hanna-Barbera ne hanno la produzione, aveva così un motivo di assimilarsi con la protesta di Air, infatti è Air Bear il titolo originale. Come è stato tradotto in Italia? Eccolo qui, te lo meriti Luigi, assolutamente, è Naporso Capo. Grazie Luigi. Di che ci scusa Luigi, metti qualche da riferimento Sasso. Da Sasso, va bene. Da Sasso. Noi dobbiamo salutare Silvia, e qua sono arrivate anche diverse altre risate. Yogi, no, non è Yogi. Yogi era il collega. Anche io avrei detto Yogi. No, è Naporso Capo. Non ho fatto Yogi, ma vedo che siete molto preparati, un po' come Enza e Crostolo, sì. Se vogliamo. Yogi e Naporso Capo. Questi sono i nostri due libri presentati. Noi ci congediamo, diamo appuntamento a mercoledì prossimo, anche perché è tardissimo. Quindi domani andremo in mostra Pre-Raffaelliti ai Musei San Domenico di Forlì. Grazie Silvia, andiamo grazie a fare a il video della settimana e salutiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori. A domani a colazione. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao.